Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Dopo la piccola parentesi della rassegna stampa internazionale delle 6:15, rieccoci ora con i quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore che, visto che quello che è successo a Bruxelles nella notte era difficile da raccontare, soprattutto è un nulla di fatto, e vedremo se oggi ci verrà fuori qualcosa di più concreto, quindi vi risparmio tutti i retroscena, e perché sono appunto ricostruzioni inevitabilmente parziali. Il Sole 24 Ore quindi sceglie di titolare invece sull'altra grande partita, in questo caso tutta italiana, che è quella del risico bancario con Intesa che rilancia e spacca il patto UBI. Sapete che Intesa San Paolo, che è il più grande istituto bancario italiano, ha fatto un'offerta pubblica di scambio su UBI Banca, e adesso questa un po' congelata, se vogliamo, come tantissime altre cose dal periodo di lockdown, adesso si dovrebbe arrivare presto a un accordo finale. La foto del Sole 24 Ore è dedicata al Ponte Morandi, perché Maurizio Caprino, che naturalmente gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, racconta come diciamo il Ponte Morandi, che dovremmo chiamare ex Morandi, naturalmente lo ricorderete, 14 di agosto del 2018 crollò, e adesso arriva un limite di velocità per la curva a rischio. C'è naturalmente un richiamato in prima pagina, un aggiornamento per quel che si è potuto fare sulle trattative in corso a Bruxelles su questo famoso, famigerato Recovery Fund, nuovo piano di mediazione. E poi dalla prima vi segnalo anche l'articolo di Riccardo Barlan, perché è una vicenda di cui danno conto tutti i giornali e che si inserisce nel grande risico commerciale tra Cina e Stati Uniti. Che cosa succede? Che pare che l'amministrazione Trump voglia inserire TikTok, il social network che fa parte a una società fa capo a una società cinese, nella lista nera, per intenderci quella stessa lista in cui è stato inserito Huawei. Tutta la vicenda invece, appunto, Intesa San Paolo la trovate poi a pagina 3. Messina ritocca l'offerta da Intesa, 650 milioni in contanti. Con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, in edicola plus, la copertina è intitolata "Quanto durerà il sogno americano investire a Wall Street", perché sapete che c'è questo, potremmo dire quasi questo gap tra Wall Street e, diciamo, High Street, cioè l'economia reale. Il listino degli Stati Uniti continua a correre, ma ora l'attenzione dei grandi investitori si sposta sulle trimestrali, che stanno cominciando ad arrivare, che poi diventano anche semestrali perché sono i dati del secondo trimestre e quindi del primo semestre, ed elezioni, il ruolo decisivo della Fed. Con il Sole 24 Ore oggi in edicola, anche in realtà in edicola già da ieri, con How to Spend It, il numero di questo mese di How to Spend It, il magazine del Sole 24 Ore, e insieme c'è anche questa guida all'eleganza maschile curata da Silvia Paoli, e naturalmente l'abbiamo fatto un po' coincidere questa uscita con la fine della settimana della moda maschile, per la prima volta digitale, perché quella di giugno di nuovo, come potete immaginare, saltata come tantissime altre manifestazioni, fiere ed eventi per via del lockdown. Corriere della Sera, ecco qua, il vertice dell'Unione Europea parte tra i no, vi dicevo appunto soltanto commenti e retroscena, perché dobbiamo con pazienza aspettare che le trattative proseguano. La foto è dedicata a un servizio di Giuseppe Sarcina dall'Alabama. Nell'Alabama piegato dal virus dopo 4 mesi senza mascherine. L'Alabama è uno dei tanti stati americani che contribuiscono a questo continuo aumento di contagi. Anche ieri, l'avete sentito nei GR, un nuovo record. Con il Corriere della Sera, come ogni sabato, Io Donna, in copertina Monica Bellucci. Ma in realtà la parte speciale di questo numero, il gusto dell'estate, ricette, riti, destinazioni e gourmet, per chi appunto è fortunato e può andare in vacanza. La Repubblica, Unione Europea, l'Italia all'angolo. La foto scelta da Repubblica è il saluto tra Ursula von der Leyen e Angela Merkel al primo vertice dell'Unione Europea fisico post lockdown, e si salutano toccandosi i gomiti. Poi vi segnalo una lunga e molto interessante intervista a Khodorkovsky, l'oppositore di Vladimir Putin in esilio, fatta da Roberta Castelletti, che poi trovate a pagine 12 e 13 della Repubblica. Solo una rivoluzione può deporre Putin. Con la Repubblica in edicola, anche qui come ogni sabato, il magazine D, e in questo caso in copertina un'altra donna, Barbara Iatta, che è il primo direttore donna dei Musei Vaticani. Vi segnalo anche Financial Times del weekend, in questo caso anche qui l'apertura è sulle trattative in corso a Bruxelles. A salutarsi, la foto scelta da Financial Times è quella di Angela Merkel con il ministro del Consiglio Europeo, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Anche loro si salutano con la mascherina sul volto e si toccano i due gomiti. Anche Financial Times mette in prima pagina questa vicenda di TikTok e appunto sottolinea che così la US-China friction, cioè la divisione tra Stati Uniti e Cina, si riscalda ulteriormente. La Stampa, Unione Europea, l'ultima sfida fra Italia e Olanda. Sapete che il principale oppositore di un via libera alla parte consistente dei prestiti a fondo perduto per l'Italia è l'Olanda, che vorrebbe, ma è l'unico paese a chiederla, un diritto di veto sui singoli piani per utilizzare questi soldi. La fotonotizia in realtà è una foto appositamente sfocata con una serracinesca abbassata, e con il tema è il Covid. Quindi da una parte dietro fronte il governo no alla proroga dello stato d'emergenza, la foto però è stata scattata a Barcellona dove le autorità hanno imposto, non è la parola giusta, perché hanno proposto un lockdown, perché in realtà non è obbligatorio. Il Messaggero, fondi dell'Unione Europea, attacco all'Italia, Merkel cerca la mediazione. La fotonotizia è una foto di Beatrice Bettoni, modella di 23 anni, che studia anche allo IULM. L'intervista fatta da Michele Boroni, che trovate a pagina 15, alla gente piaccio curvy, ho vinto io. Curvy in inglese significa semplicemente formosa, e in effetti è sicuramente una ragazza formosa. Qui in questa foto è abbastanza vestita, quindi non saprei dire, e non l'ho trovato neanche all'interno in realtà, che taglia è questa ragazza. Ma curvy non vuol dire gravemente sovrappeso e non vuol dire obeso. Invece poi all'interno, a pagina 15, è un tema che mi sta molto a cuore, quindi ho letto con attenzione sia l'intervista di Michele Boroni, è inutile dire che avrei preferito che a intervistarla su questi temi fosse una donna, ma tant'è, il Messaggero ha scelto un uomo. E il virgolettato per intitolarla, la trovate a pagina 15, è: abbiamo vinto noi, ora la gente ama modelle con le curve. E che, ripeto, vuol dire tutto e niente se non ci dite in quanto pesa questa ragazza, perché poi le foto che vengono messe sopra sono di una modella altro che curvy, Ashley Graham, che pesa dopo il parto pesa quasi 90 kg, quindi si tratta di obesità con tutti i problemi di salute legati all'obesità. Il commento è di Maria Latella, che naturalmente non devo presentare agli ascoltatori di Radio 24, ma credo che la consulterò, mi piacerebbe avere uno scambio di opinioni con lei su questo. Fa un po' un commento dicendo, partendo dalla modella britannica Twiggy, ricordata con uno scatto del 1964, e dice Maria Latella: Twiggy addio, il peso non è più un tabù, le donne si liberano da un'ossessione. Magari, mi viene da dire, perché io purtroppo non credo che sia così facile liberarsi non tanto dall'ossessione del peso, ma dal riuscire ad avere un rapporto più sereno con il proprio corpo, che non si misura soltanto per quanto riguarda appunto il peso. Avvenire ha un'apertura completamente diversa, molto interessante: le mani delle mafie sulla crisi da Covid. Si fa riferimento a un rapporto della DIA, la direzione antimafia, e ne danno conto anche altri giornali, ma non con questa enfasi che secondo me invece è necessaria, l'allarme della DIA, contesto post bellico, i clan organizzano un proprio welfare. In prima pagina anche un aggiornamento da Bruxelles, toni alti tra Italia e Olanda, l'UE per ora bloccata dai veti. Noi però ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. Quello che cerchi nel tuo business, cercalo anche per la tua auto. Guida la nuova BMW Serie 3 Touring senza acquistarla con il leasing YBuy. Da 240 euro al mese, TAN 0,99, TAEC 2,90. E dopo un anno puoi rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Offerta valida fino al 30 settembre su vetture disponibili subito. Salvo approvazione BMW Financial Services. Fogli informativi su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, all'ascoltatore che mi chiede: ma Guida all'eleganza maschile è un libro o un articolo? No, è proprio un libro, sono circa 130 pagine, io l'ho avuto ieri in anteprima, poi l'ho sfogliato ieri sera e lo trovi, devi chiederlo, in edicola insieme a How to Spend It. E tra l'altro c'è all'interno anche una, l'autrice è Silvia Paoli, e all'interno c'è anche una bellissima intervista, quella l'ho letta dalla prima all'ultima riga, Nino Cerrutti, grande stilista e imprenditore, maestro di eleganza, e che appunto racconta a Silvia Paoli la sua idea di eleganza e di stile. Ma eravamo sulle prime pagine, quella del Fatto Quotidiano apre su questa vicenda che coinvolge la Lega, e ci sono giornali che a questo hanno dedicato, il Corriere per esempio, l'ho messo subito sotto, una specie di trafiletto, ma invece il Fatto Quotidiano ci apre e il tema è questo di questa Lombardia Film Commission, che è un ente pubblico, esiste in quasi tutte le regioni e serve appunto a promuovere sostanzialmente le location della Lombardia per girare dei film o dei cortometraggi. È una vicenda molto complicata, le indagini sono appena iniziate, ma il Fatto Quotidiano titola Fondazione Lombarda, Bancomat dei leghisti. Vi dicevo, c'è anche su altri giornali, La Repubblica per esempio, pagina 11, La Lega e i soldi spariti, la strada dell'inchiesta conduce fino in Russia, e vi dicevo, l'inchiesta in Lombardia per il Corriere vale un trafiletto, pagina 15, pagatemi o parlo, così Sostegni minacciava i commercialisti indagati che sono appunto pagati da questa Lombardia Film Commission, che è un ente della regione. Scelte diverse insomma per la stessa notizia, anche la stampa pagina 13, il prestanome che spaventa la Lega, se decido di parlare qui salta tutto, e sono le parole di Luca Sostegni, interrogato, arrestato e interrogato, e abbiamo saputo che aveva con sé 5.000 euro in contanti, aveva intenzione di andare in Brasile. Libero ha un'edizione, diciamo l'edizione di oggi, ma all'interno trovate anche un'edizione speciale perché Libero compie 20 anni. All'interno uno speciale di 24 pagine con i contributi delle grandi firme passate da Libero. Il titolo vero e proprio però è dedicato a Zingaretti nella melma, Nicola non ce la può fare, la Corte dei Conti lo accusa di aver fatto un buco da 89 milioni, De Luca, governatore della Campania del PD, gli rinfaccia gli aperitivi al Covid, mezzo PD lo attacca sui migranti, il Movimento 5 Stelle boicotta i suoi candidati. Molto bello come sempre, immaginifico diciamo, il titolo del manifesto, Vortice Europeo, al vertice europeo che deve decidere il destino dei paesi più colpiti dal Covid, è un tutti contro tutti, questa l'interpretazione del Messaggero. Italia Oggi ha un'apertura ancora diversa perché ieri il ministro dell'economia Gualtieri ha partecipato a un incontro e ha delineato quella che potrebbe essere la riforma fiscale. Gualtieri promette meno tasse, il ministro annuncia una riforma fiscale con riduzione imposte sulle imprese e il lavoro, aiuto ai genitori e più investimenti, niente IMU sulla prima casa, e vedremo se poi appunto a questi annunci seguiranno dei fatti. Anche il premier Conte del resto aveva parlato di una ennesima, potremmo dire, riforma fiscale. Il giornale Conte Dracula, il governo delle tasse, a proposito di tasse, rinviare costa troppo, lunedì stangata da 8,4 miliardi sulle partite IVA. Sapete che ci sono tutte queste scadenze, era il titolo del Sole 24 Ore di ieri, scadenze fiscali in questo mese di luglio, c'era stata la richiesta, visto tutto quello che è successo, di spostare alcune di queste scadenze, ma così non sarà. La verità, Conte si riprende gli aiuti alle imprese, la grande beffa del decreto liquidità, la potenza di fuoco, così è un virgolettato perché naturalmente era una delle espressioni usate dal Premier Conte per presentare questo decreto liquidità, ha erogato appena 50 miliardi di prestito, 34 dei quali ora devono essere impiegati per onorare le scadenze fiscali che sono state soltanto rinviate. In pratica lo Stato ha fatto indebitare le aziende perché lo pagassero e poi morissero pure. Andiamo alle pagine interne dei quotidiani, torniamo sul Sole 24 Ore, a pagina 5 trovate i dati più recenti sui dati della manifattura, industria nel recupero, balzo degli ordini più 42%, naturalmente il confronto è col mese precedente e se si fa il confronto con invece il 2019 naturalmente si percepisce i danni fatti da questo lockdown. La questione di TikTok è l'apertura della sezione Mondo, TikTok verso la lista nera, così Trump incalza la Cina, e l'articolo è di Riccardo Barlam, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. E vi segnalo poi la pagina Motori, che esce ogni sabato con il Sole 24 Ore. All'interno del Sole 24 Ore l'apertura di Simon Luca Pini è dedicata alla Ghibli Hybrid, che dice addio al diesel, ecco la prima Maserati elettrificata. Di TikTok parla anche il Corriere della Sera, e qui ve lo segnalo perché chi di noi già fa fatica a seguire o semplicemente i messaggi che arrivano via mail, via WhatsApp, io personalmente ancora con degli SMS, e magari non vuole iscriversi a un altro social network, questo è proprio di brevi video, e anche influencer famosi che finora probabilmente hanno frequentato solo altri social network sono un po' fuori età, perché questo è il social network proprio dei teenagers, però si cimentano, e il Corriere spiega con Massimo Sideri che per esempio anche Chiara Ferragni, 33 anni, si è cimentata nella moda del momento su TikTok, i balletti coreografati divertenti, ma c'è anche Will Smith, Paris Hilton che di anni ne ha 33 o Will Smith che di anni ne ha 51, ma anche lui mette questi balletti su TikTok. Vi segnalo questo titolo, e sono sicura che non l'ha fatto l'autrice dell'articolo, che è Valeria Costantini, perché la vicenda è quella di un commerciante di 48 anni che ha ucciso a colpi di pistola la moglie e poi si è tolto la vita. E il titolo è questo: ambulanti in crisi per il Covid, spara alla moglie e poi si uccide. Direi che il titolo è spara alla moglie e poi si uccide, poi che fosse anche un ambulante in crisi per il Covid è un altro tema. Molto bella l'intervista a Miuccia Prada fatta da Serena Tibaldi su Repubblica. La mia moda oltre le passerelle, vi dicevo, è finita questa strana prima Digital Week, Fashion Digital Week, cioè perché è digitale? Perché la maggior parte delle presentazioni delle sfilate sono state in forma digitale per l'appunto, quindi ognuno ha scelto la sua strada e poi l'ha messa su internet. E poi si vedrà se a settembre cambierà qualcosa, si tornerà alla maggior parte delle sfilate fisiche. In questa tornata solo due marchi, Etro e Dolce Gabbana, hanno scelto di fare due sfilate all'aperto. E quindi Miuccia Prada racconta: per le prime collezioni post-lockdown che segnano la ripresa del settore, la stilista imprenditrice riparte dai simboli del marchio e fa un bilancio. Sono una sostenitrice degli show dal vivo, ma mi piace moltissimo che con i video e lo streaming si coinvolge il grande pubblico. Ancora pochissimo tempo, aggiornamento sull'Italia sul Messaggero, ve lo risparmio per risparmiarvi un'arrabbiatura di prima mattina. Dal Fatto Quotidiano, due pagine sono stati presentati i nuovi palinsesti della RAI, quando si tornerà dalla pausa estiva della RAI, non di molte altre persone. Nuovo governo, nuovi epurati, la riforma in RAI può attendere, e c'è tutto appunto il solito, quello che gli americani chiamano spoil system, cioè cambia un governo e cambiano una serie di cose, perché la RAI, che è una TV pubblica di Stato e che quindi dovrebbe rappresentare tutti, non solo il governo del momento, ancora segua questa logica, per me non è un mistero, ma è sicuramente una pratica esecrabile. Era però l'ultima segnalazione per oggi, avevo messo da parte tante altre cose, ma il sabato abbiamo davvero poco tempo. Un grazie a Peter Vescapè in regia, e per chi vorrà domani mattina appuntamento alle 7:15 con la rassegna stampa dei quotidiani italiani.